Quando te pensa notte ma foca si sto sonnando. Yeah, yeah, basta che non mi dice basta. E che quando poi ti chiama non sta che risponde e mi parla. Mi dare femmina in coppa, ma non so per me. Non mi innamoro c'è nessuna, ma non so ciò perché. Se ci riflette cose giuste che poi non fanno per me. Proprio perché si troppo giusto, quindi non può sta con me. No, no, pure in un giorno già rimano mo. Già raga dure cose giuste, ne erano giusto. Quando mi abbraccio metto tutto in baslomo. L'amore buono è per persone se buona all'interno. Nove persone che buono non vengono niente, ya intendono all'inferno. Si tua mezza si carende, pure senza trucco sia più bel. Basta che mi abbraccio e si mi abbraccio, sento fitte pure si ne vien. Non mi stanchi, dice raga mi manca. E quando te pensa notte ma foca si sto sonnando. Yeah, yeah, basta che non mi dice basta. E che quando poi ti chiama non sta che rispone e mi parla. Non mi stanco mai a dirti che mi manchi. Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti. Yeah, yeah, basta che non mi dici basta. E che quando ti chiamo non stacchi, rispondi. Fai una canna che così ci passa. Questa incazzatura non ci fa parlare. Tu mi guardi senza dire nulla. Ce l'hai scritto in faccia che sei presa male. Ma io per te morirei. Per te morirei. Senza pensarci due volte, tu lo sai che lo farei. E non so stare tranquillo quando non so dove sei. No, vi giuro che non era la stessa cosa con lei. Anche se ti dico vai via, per la mancanza lascia un messaggio in segreteria. Dimmi che sono un bastardo e che no, non sei più mia. Siccome tutte le volte io esco e sbatto le porte, dopo ti sbatto più forte perché non mi stanchi, dice raga ma manca. E quando te pensa notte ma foca si sto sonnando. Yeah, yeah, basta che non mi dice basta. E che quando poi ti chiama non sta che risponde e mi parla. Non mi stanco mai a dirti che mi manchi. Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti. Yeah, yeah, basta che non mi dici basta. E che quando ti chiamo non stacchi, rispondi. Vabbè, comunque lascia stare. C'è sempre stessi cose che ti manca e poi ne ho vero. Cioè, cambia casa senza me, mai vita, senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non insieme. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male che a morire.